Aspetta. No, ma è radio sperimentale questa, Dragon, te ne accorgi? Senti, basta avere uno smartphone, un'applicazione stupida e schiacciare a caso e fai la radio sperimentale. E avere una radio però che ti trasmette certe cose. Vabbè, se sono a casa tua così non è che fai la radio. No, hai ragione. Quindi siamo fortunati. Finché dura. Chiedo asilo. Bentornati e chiedo asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Oh, allora Drago, facciamo chiarezza. Chi cosa? Quale chiarezza? Noi. Ma noi. Siamo nel bel mezzo del guado. Ma quale guado? Piuttosto siamo nel bel mezzo del guano. Drago, il guado del mercoledì. Anzi, il guado del... Siamo a metà della settimana ed è il momento giusto per mettere in fila tutti gli animali totem dei nostri giorni della settimana. Ma no, io non ci capisco già. I nostri animali totem. Tu dici lupo del martedì, serpente del lunedì, quelle esatto. cose lì. Abbiamo affastellato animali su animali, adesso dobbiamo far chiarezza, mettiamoli tutti in fila. Sì, cosa facciamo? L'arca di Noè? Cioè, l'arca della settimana. Va bene, sei pronto? Allora, cominciamo dal lunedì. Allora, il lunedì era il serpente del lunedì. Giusto, il serpente del lunedì. Ecco, e poi? Poi c'è il lupo del martedì. Eccolo lì. Ok. Poi c'è il guado del mercoledì. No, ma il guado non è un animale, quindi non si può usare. Vedi? È mercoledì e senza animale totem. Dobbiamo trovargliene uno. Avevamo detto il coccodrillo, tu non eri allora, d'accordo. Vedi, io non mi ricordavo il coccodrillo. Allora, facciamo il coccodrillo. Allora, allora, il coccodrillo del mercoledì. Ah, quindi io pensavo che invece, visto che tu hai detto lo scavallamento del mercoledì l'altra volta, no? Io pensavo che scavallamento collegasse al cavallo, hai capito? Quindi no, il cavallo. Scavallamento non è un animale tanto quanto il cavallo, guado. Però sì, scavalla cavallo, cavalca cavallo. Ah, potremmo fare quindi. Allora, passiamo al giovedì, dai. Facciamo giovedì. Il cavallo e il coccodrillo, due animali. Insomma, non so, uno prima dell'altro. Vabbè, c'è giovedì. Giovedì. Però non abbiamo assolutamente animali per il giovedì. Vero, un disastro. Poi c'è venerdì, che è venerdì. No, è venerdì senza animale. No. Per il venerdì c'è un animale, ben preciso. Ah, sì. Eh sì, l'hanno sentito tutti venerdì scorso, Drago. Cioè, tu dormivi, era un pre-sigla, d'accordo, ma l'hanno sentito tutti, Qual è il tuo animale preferito? Il coccodrillo. Il coccodrillo del mercoledì? Sì. E il lupo di quando è? Di giovedì. Sai che il lupo del martedì? Il venerdì? La ganza. La gazza del venerdì. La gazza, va bene. Che non è la Gazzetta dello Sport, non è Gascoigne. Paul Gascoigne o Gascoigne. Insomma, che... il calciatore della Lazio. Ancora vivo, sì, della Lazio, insomma, ha giocato un anno nella Lazio, il resto. Dimmi un'altra squadra dove ha giocato Gascoigne. Non lo sai. La Roma. Ma no, ma che Roma? Newcastle. Vabbè, allora resta il giovedì. Giovedì senza nome. Allora, facciamo scegliere dai nostri bambini all'ascolto. Proponeteci l'animale totem del giovedì. Sì, però tenete conto del significato profondo del giovedì, che viene subito dopo il coccodrillo del mercoledì e subito prima della gazza del venerdì. Quindi bisogna piazzarlo. Questo qua, come avete riconosciuto, era il verso della gazza. Comunque, spremetevi il cervello alla ricerca dell'animale giusto per il giovedì. Che poi giovedì è domani, quindi non è che c'è tanto tempo. Dai, forza! E ora, bambini! Ricreazione! Che praticamente è una questione di balistica, se non ti vedo così. Vai. Kappa! Cosa c'è? Ma non niente, tutti! Lasciami qua! Aspetta. Allora. tiro così indietro, vado 3, 2, 1 via. Senti una cosa. Cosa vedi? No, scusa. Drago, no, mi hai mai fatto sbagliare. Ma lasciami un attimo, mi sto. Concentrati. Insomma, ti ho detto, è una cosa di concentrazione. Qui devi. È tutta una questione di calcolo balistico perché devi andare a. Ah, tra l'altro, senti. Drago! No, vabbè, dai, scherzo. Guarda, era un esperimento. Il mio era un esperimento. Esperimento. È andato anche bene perché ho capito che tu soffri di. Concentrazio interrupta, cioè da piccolo hai fatto come fanno i bambini di oggi, piccolo, anche quelli della nostra età. Anche tu, se mi rompi le balle, mi deconcentri anche lasciati adesso. Lasciati spiegare quello che dicono quelli della Università della Pennsylvania, che arrivano ogni settimana con una notizia nuova. Questa è che se i bambini, come succede spesso anche a quelli della nostra età quando eravamo piccoli, fanno i compiti mentre c'è la TV accesa, mentre la mamma parla al telefono e sono sottoposti a continue interruzioni, poi da adulto come te non riescono a concentrarsi. Infatti, hai visto che fine hai fatto. Angry Birds. Allora adesso che mi hai deconcentrato? Ho dimostrato che hai la concentrazione interrutta. Cosa vuoi, una medaglia? Cosa vuoi? Vabbè, adesso vabbè, tu non mi dai soddisfazione. Lasciami in pace, Drago. Bambino Alberto, tu che sei un vero bambino. Dai, bambino, cosa stai facendo? E cosa c'è? Ma no, stavo cercando di allacciarmi le scarpe. Mi distrai. Ti distraggo. Vedi, appunto, tu sei un bambino di oggi, quindi sei sottoposto al bombardamento dei media. Io vorrei bombardare questi porcelli con il bombardamento uccelli. Dei media. Media. Allora, 5.000 punti. Io voglio andare a fondo in questa discussione. Sì, tu perché vuoi andare a fondo? Ma guarda, no, prima di tutto, a fondo mi sembra che tu ci sia già, però. Hai un aspetto orribile. Ma cosa vuoi, sì, bambino? Ma sì, ragione, poi con quegli occhiali. Ma dai, sei tua zia. Occhiali di lettura, insomma, così. Sei tua zia. Ma mia zia quale? Ma non lo so. Sembra una zia. Vabbè, non cambiamo discorso, senti qua, c'è anche il cane. Rimaniamo ragione, concentrati, parliamo non ti concentrati. Allora. Ma è appena tu che c'è il cane, come ci si fa a concentrare? Non c'è ragione, scusa. Quindi? È continuamente interrotta la concentrazione, quindi al mondo d'oggi, senti come sono sul pezzo, sì. al mondo d'oggi, è inutile parlare di concentrazione o no interrotta, bisogna essere multitasking sempre su tante cose. Io qui, guarda, che mentre gioco a Angry Birds, della Pennsylvania, guardo anche il bambino Alberto come è vestito oggi, ma veramente una cosa imbarazzante, cioè scusami. Allora cosa c'è? No, voglio dire. Però... Vabbè, ognuno a me veste mia mamma, no? Sì, ho capito, cosa si vede. Lei, no? Si vede, si vede. Però alla fine cosa c'entra questo qua? Non lo questa so. Roba che non ho ancora capito sta concentrazio interrotta. È quella di cui soffri tu, bambino Alberto. Io? Sì, perché hai sempre la TV accesa, sempre il PC acceso, lo smartphone acceso, come fai a concentrarti per fare i compiti? Ma quali compiti? Io vado all'asilo, non ci sono compiti. Vabbè, no? Ma scusa, tra poco andrai a scuola e se sei abituato così Alberto, devi imparare. L'elastico dell'uccellino. Non guardare, non guardare. No, anche bambino Alberto. Se clicchi mentre in volo, lui si split in tre. E touchpad, certo. Come no? Senti. Bambino Alberto, tu tra poco andrai a scuola. Se sei abituato così, so. Io non voglio capire come fai a fare i compiti. Devi adesso così cominciare a spegnere tutto e imparare a concentrarti, capito? Ma allora, concentrarmi. Ma se mia mamma sente che io sto zitto in camera, no? Che non do segni di vita. Sì. E lei va a sbattimento, viene subito in cameretta a vedere cosa c'è. E quindi mi interrompe, no? Te l'ho detto, non c'è. L'interruzione della concentrazione è dappertutto, non solo con la TV e gli smartphone, però, anche le mamme apprensive. Ma allora, diglielo tu a mia mamma, no? Questa qua viene sempre a interrompere, digli di smetterla. E tu sei la zia, no? Ma come io sono la zia, le dico: ah, ciao mamma del bambino Alberto, sono la zia del bambino Alberto, cioè sono tua sorella. No, no, oppure sei sua cognata. Cognata anche. Mia cognata. No, e lei mamma, non lo sa, cioè non m'ha mai visto. Cosa c'è tra zia? Ma no, infatti, niente. Comunque mia mamma vuole impicciarsi di quello che faccio in cameretta, che tra parentesi sono, sarebbero anche i fatti miei, no? Ma sì, però tu sei troppo piccolo per farti i fatti tuoi, mettitelo in testa. Ah sì, Sì. Allora spiegatemi un po' sto fenomeno. Guarda, contento, cioè, ogni volta che i miei genitori mi obbligano ad andare a trovare il nonno un po' malandato, no? Alla casa di riposo, vabbè, giusto, voglio dire. Allora lì sono grande, no? Allora lì divento grande. Ah sì, ormai sei grande, puoi anche entrare in posti tristi, devi affrontare la morte. Sì, così poi. Non è ancora morto il nonno. Però poi se si tratta di. No, però voglio dire. E poi se la vi, no? Cioè voglio dire. No, se la vi, sì. Largo i giovani. Comunque, quando si tratta di fare i fatti miei, allora sono troppo piccolo. Mettiamoci d'accordo. Allora, bambino Alberto, ormai lo sai che così vanno le cose. Non è la prima volta che sbatti il muso contro la triste realtà. La triste realtà. Sì, la triste realtà è che noi bambini non contiamo niente. Non contate niente, caro bambino Lambertucci. Ma Lambertucci? È qui, ecco, vedi? Fai il calcolo balistico giusto. Tutta la ricreazione. Ciao, bambino Alberto. Non smetti di giocare a quello. Ciao, ciao. Vabbè, ma. E lì libero. E intanto io ero qua che mi stavo legando le scarpe e mi avete distratto. Poi mi è anche venuto in mente che non sono ancora capace di legarmi le scarpe. Eh sì, perché. E adesso qui. E mi sono lasciato due stringhe. E mi sono incaprettato praticamente.